Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di biogas questa sera per cercare di capire in che direzione si sta muovendo questo settore che ha molti punti di forza come le piccole dimensioni degli impianti per la produzione del biogas, l'elevata produttività del processo se paragonata a quella diciamo degli altri biocombustibili liquidi, quelli di prima generazione e infine una possibilità molto importante è quella di utilizzare in gran parte scarti e non solo colture dedicate. Tuttavia c'è ancora parecchio da fare per superare definitivamente il conflitto tra coltivazioni energetiche e coltivazioni alimentari e per migliorare nel complesso l'efficienza di tutto il sistema, di tutta la filiera del biogas. Ci sono molte attività in questo senso, ne parliamo con Piero Gattoni che è presidente del CIB, il Consorzio Italiano Biogas. Buonasera Gattoni. Buonasera Melis, salute agli ascoltatori. Allora, ci aiuti un po' a capire meglio questo conflitto da superare e come vi state muovendo voi? Noi pensiamo che la digestione anaerobica debba essere vista in Italia e possa essere vista in Italia non solo come una tecnologia per produrre energia elettrica o termica, ma abbia le potenzialità per diventare una vera piattaforma tecnologica in grado di produrre biometano, quindi un biocarburante tutto italiano per i trasporti, fertilizzanti organici attraverso l'utilizzo del digestato, che quindi riduce la necessità di utilizzare fertilizzanti. Cioè quello che rimane dopo questo processo di digestione appunto che produce biogas, resta materiale che si chiama digestato e da lidite si possono per esempio ricavare fertilizzanti che tra l'altro tornano immediatamente lì all'agricoltura da dove provengono. Utilizzati per migliorare agronomicamente il terreno e poi possiamo anche pensare ad avere come tante piccole bioraffinerie, quindi un processo in cui ci siano tanti piccoli centri di produzione che un domani potrebbero essere utilizzate per migliorare l'utilizzo di quello che facciamo da un ettaro. In sostanza noi pensiamo che il tema non sia tanto se un ettaro debba essere destinato alla coltivazione alimentare o destinato alla coltivazione energetica. Sì. Noi pensiamo che il settore agroalimentare italiano debba rispondere alle grosse tematiche che ci sono quelle di produrre ambientali, che sono quelle di produrre cibo e energia in maniera sostenibile, quindi dallo stesso ettaro come produrre di più in modo che dallo stesso ettaro possa eventualmente essere prodotto una matrice che, da cui magari estrarre. Cioè una specie, ecco, una matrice magari così non si capisce. Insomma lei dice scegliamo delle coltivazioni che abbiano delle caratteristiche particolari. Sì, culture che possono anche avere un trattamento precedente per poterne estrarre la parte nobile, andare a produrre alimento o comunque andare all'alimentazione della zootecnia e poi utilizzare il sottoprodotto per la digestione anaerobica. Oggi in Italia abbiamo circa 1000 impianti che producono energia e che potrebbero diventare alla base di questo percorso innovativo. D'accordo, ecco un altro tema che mi sembra sia all'ordine del giorno sia proprio la ricerca invece sulla digestione anaerobica. Noi pensiamo che ci siano diversi ambiti perché la ricerca possa aiutare la produzione di quello che il consorzio chiama il biogas fatto bene, partendo dalla parte agronomica, come utilizzare tecniche culturali a minore impatto ambientale attraverso la minima lavorazione. Poi c'è tutta la parte di pretrattamento dei prodotti, quindi come pretrattare le culture o i sottoprodotti o gli effluenti zootecnici in modo che nel percorso biologico, nel processo biologico ci sia una maggior produzione della materia del biogas. Infine poi c'è tutta la parte di ricerca legata al digestato di come utilizzare al meglio le proprietà fertilizzanti di questo prodotto. Noi nel settore agricolo siamo allevatori e siamo riusciti negli anni a migliorare l'efficienza dei rumini dei bovini per riuscire a produrre più latte. La stessa cosa noi riteniamo che vada fatta con l'aiuto di una ricerca applicata per capire bene quali sono i parametri che gestiscono la biologia di questi grandi rumini per migliorare l'efficienza in trasformazione di biogas. Ecco, perché quello che fanno i ruminanti nel loro apparato digerente è simile a quello che voi fate nei vostri bei reattori per produrre biogas sostanzialmente. Sì, sì, è esattamente, il processo è molto simile, si tratta di rumini più grandi con un un tempo di persistenza maggiore, però di fatto concettualmente è come se fossero delle grandi vacche. Ecco, d'accordo. Senta, un altro lavoro che state facendo invece è una sorta di pretrattamento del materiale che poi date in pasto a questi reattori biologici, no? E state facendo diversi esperimenti. Sì, diciamo che anche su questo noi chiediamo alla ricerca una mano, cioè oltre la capacità innovativa delle aziende sia agricole che industriali italiane, ci sarà bisogno della ricerca per capire come anche in questo caso riprodurre un processo più simile a quello naturale della vacca, che non utilizza subito l'alimentazione nel rubine, ma prima lo mastica e lo impasta e lo utilizza. In questo modo il ruminante si chiama così proprio perché ha questo specie di stomaco multiplo, diciamo, e nel primo stomaco butta giù la roba, la ritira su, la mastica, la rimanda giù, la ritira su, la mastica, fa un lavoro che voi cercate di imitare. Ci stiamo incominciando a interrogare con delle tecnologie di come poter fare questo processo di pretrattamento e di come questo processo possa rendere più efficiente poi la fase di digestione aerobica, ma non solo più efficiente, ma come si possa utilizzare nei nostri digestori culture che per esempio hanno meno sostanza energetica come potrebbe essere il mais, ma culture con più sostanza di fibra, come cellulosa, cellulosa, come potrebbe essere un sorgo, in questo caso andando poi a impattare su quella che è l'ordinamento culturale delle aziende, che potranno attraverso questa innovazione produrre magari durante l'inverno una cultura autunno-vernina destinata all'alimentazione e poi in primavera seminare magari un sorgo e quindi una cultura che invece potrà avere un utilizzo a fini energetici. Questo si chiama quello che noi chiamiamo l'efficienza nell'uso del terreno, la land efficiency, in questo caso la digestione anaerobica permette di sviluppare questa strada. Grazie Gattoni. Grazie Melis, grazie a tutti.